1777. 12. Si allontanavano senza chiasso, verso il tramonto inondato d'oro. Trascinavano via a due mucche, il cavallo da tiro, sacchi di mais. William Adlum contemplò il granaio mezzo vuoto e pensò alla fatica che gli era costata a riempirlo. I figli sbirciavano dalla finestrella del sottotetto, dove si erano rintanati quando gli uomini erano comparsi sul cortile. Il loro capo aveva parlato con gentilezza, chiedendo viveri e bestiame in nome di Re Giorgio. Nel mentre, gli altri ceffi mostravano i fucili. Due generali avevano bloccato il fronte della guerra, Inverno e Vaiolo. Nella bruma di quel mattino d'aprile era chiaro che il primo cedeva ormai il passo, mentre l'altro non offendeva più con la stessa virulenza. Ora toccava agli altri ufficiali impugnare il bastone del comando, prendere le decisioni, andare alla resa dei conti. Joseph Brandt contemplava la vestizione nella casa di Okwaga con lentezza e cura particolare, consapevole del tempo ormai giunto al compimento, così come del ruolo che si era scelto, il comando. Non aveva i gradi di generale, ma questo non aveva alcuna importanza. La guerra nominava sul campo i suoi massimi esecutori. Prendere l'iniziativa al momento giusto poteva ribaltare le gerarchie con facilità. La scelta del tempo dell'azione era il fattore decisivo di molti conflitti. Il valore e il coraggio dei guerrieri facevano il resto. Joseph era conscio delle difficoltà. L'equipaggiamento scarso, pochi fucili, mancavano polvere da sparo e denaro. Tutto ciò che serve a vincere le guerre. Il contingente di uomini non era abbastanza numeroso, ma poteva aumentare con le vittorie. L'entusiasmo e la voglia di bottino avrebbero ingrossato le file. Se i volontari che scendevano in battaglia al fianco di Joseph Brandt avessero guadagnato una solida ricompensa, senza costare un penny alle casse del re, in pochi mesi sarebbero diventati legione. Joseph infilò per ultima la giubba rossa dell'esercito imperiale. Un gesto meticoloso e solenne ad allacciare ogni bottone, tendere ogni piega o sgualcitura, favorire l'aspetto marziale e autorevole. Era pronto ormai. Fuori i raggi del sole spezzavano la nebbia del mattino. Si accorse solo in quel momento che Isaac alle sue spalle lo scrutava torvo e rapito. Fissò il ragazzino per alcuni secondi, quanto bastava a suscitare in lui inquietudine. «Vieni con tuo padre, dobbiamo parlare agli uomini». Il ragazzo gli schizzò dietro come un cane. Le facce raccontavano storie. Parlavano di vite consumate a rivoltare zolle e a seminare terra selvaggia, ferite d'artiglio e di coltello, espressioni stolide di contadini e cacciatori. Abitavano l'interno della colonia e Joseph sapeva di poter contare sul loro odio per l'assemblea di Albany e gli affaristi di New York. Davanti a tutti, i fratelli Hogue e Daniel Secord stavano appoggiati ai lunghi fucili. Salutarono l'arrivo di Joseph toccandosi le tese dei cappelli. Qualcuno li imitò. Joseph, una mano sulla spalla di Isaac, si piazzò sotto la bandiera, come aveva fatto l'autunno precedente. «Siete venuti per vostra volontà», disse in inglese. «Io non posso darvi una paga, come fanno gli ufficiali dell'esercito, perché non ho denaro. Non posso rifornirvi di armi e munizioni, né passarvi un rancio. Ma posso dirvi che obbedirete a un solo capo e a nessun altro, e potrete andarvene in ogni momento. Soltanto l'onore della vostra parola vi lega a questa compagnia. Il nostro scopo è uno soltanto, combattere i nemici del re, i nostri nemici». «Urrà per i volontari di Brent!» urlò Harry Hogue. «Urrà!» ripeté Johnny. Seguì un silenzio rotto soltanto da colpi di tosse e scaracche di tabacco. «Stabilisco qui il nostro quartier generale», proseguì Joseph, «ma per combattere dobbiamo procurarci viveri e munizioni». «Sappiamo dove andarli a prendere, capitano Brandt», era di nuovo la voce gracchiante di Harry Hogue. «Alle fattorie dei traditori, i furbi che non appoggiano la ribellione a volto scoperto, ma lo fanno nell'ombra. Menagrami e spioni, requisiamo il loro bestiame e i loro granai. Prendiamo le armi e la polvere». «E se ti sbagli e invece sono patrioti?» obiettò un ragazzone lentiginoso dalla chioma rossa. Henry Hogg sputò il tabacco per terra e gli lanciò un'occhiata maligna. «Se sono buoni patrioti, la roba ce la daranno senza lamentarsi. Siamo paladini del re». Un mormorio d'approvazione percorse il gruppo. Joseph alzò una mano e ottenne silenzio. «Dio ci assista!» William Mudrum ringraziò Dio d'essere vivo, con il resto della famiglia. Le ombre del drappello si allungavano sulla terra fino a lambire ancora la fattoria. Erano fantasmi di ritorno alla Gehenna. No, erano ladri e vigliacchi. La moglie lo chiamò dalla soglia di casa, i bambini piangevano. William Mudrum strinse i pugni e si voltò per rientrare. Il mondo crollava, non restava che pregare. Il giorno del giudizio doveva essere vicino.